5i. Ascolta e rispondi. Puoi aspettarmi un minuto? Purtroppo non posso aspettarti. Puoi ascoltarmi adesso? Purtroppo non posso ascoltarti. Puoi aiutarmi? Purtroppo non posso aiutarti. Puoi invitarmi? Purtroppo non posso invitarti. Potete aiutarlo? Purtroppo non possiamo aiutarlo. Potete aspettarlo? Purtroppo non possiamo aspettarlo. Potete riceverlo alle 3? Purtroppo non possiamo riceverlo alle 3. Potete sentirlo? Purtroppo non possiamo sentirlo.